Davide, essendo vecchio e sazio di giorni, costituì re su Israele Salomone suo figlio. Egli radunò tutti i capi di Israele, i sacerdoti ed i leviti. Si contarono i leviti dai 30 anni in su. Il loro numero, contandoli uno a uno, fu di 38.000 uomini. Di questi, 24.000 dirigevano il lavoro del Tempio del Signore, 6.000 erano scribi e giudici, 4.000 portieri e 4.000 lodavano il Signore con gli strumenti che Davide aveva fatti per questo. Davide divise in classi i figli di Levi, Gerson, Keat e Merari. Per i Gersoniti, Ladan e Simei. Figli di Ladan furono Jechiel il capo, Zetam e Gioele, 3. Figli di Simei furono Selomit, Caziel e Aran, 3. Questi sono i capi dei casati di Ladan. Figli di Simei, Jacat, Ziza, Jeus e Beria. Questi sono i 4 figli di Simei. Jacat era il capo, Ziza il secondo. Jeus e Beria non ebbero molti figli, perciò non formarono che un solo casato. Figli di Keat, Amram, Isear, Ebron, Uziel, 4. Figli di Amram, Aronne e Mosè. Aronne fu scelto per consacrare le cose sacrosante, lui ed i suoi figli, per sempre, per offrire incenso davanti al Signore, per servirlo e benedire in suo nome per sempre. Quanto a Mosè, uomo di Dio, i suoi figli furono annoverati fra la tribù di Levi. Figli di Mosè, Gerson ed Eliezer. Figli di Gerson, Sebuel il primo. I figli di Eliezer furono Recabia il primo. Eliezer non ebbe altri figli, mentre i figli di Recabia furono moltissimi. Figli di Isear, Selomit il primo. Figli di Ebron, Ieria il primo, Amaria secondo, Iacaziel terzo, Iecameam quarto. Figli di Uziel, Mica il primo, Icasia secondo. Figli di Merari, Macli e Musi. Figli di Macli, Eleazaro e Chis. Eleazaro morì senza figli, avendo soltanto figlie. Le sposarono i figli di Chis, loro fratelli. Figli di Musi, Macli, Eder e Jeremot, 3. Questi sono i figli di Levi, secondo i loro casati, i capifamiglia, secondo un loro elenco, contando i nomi uno per uno. Dai 20 anni in su attendevano al lavoro del servizio del Tempio del Signore. Poiché Davide aveva detto: «Il Signore, Dio di Israele, ha concesso la tranquillità al suo popolo, ed egli ha preso dimora per sempre in Gerusalemme. Anche i Leviti non avranno più da trasportare la dimora con tutte le suppellettili per il suo servizio». Secondo le ultime disposizioni di Davide, si fece il censimento dei figli di Levi dai 20 anni in su. Il loro posto, infatti, è di stare accanto ai figli di Aronne per il servizio del Tempio del Signore, in ciò che riguarda i cortili, le camere, la purificazione di ogni cosa sacra e l'attività del servizio del Tempio di Dio. Inoltre, ciò che riguarda il pane dell'offerta, il fior di farina per l'oblazione, le focacce azzime, ciò che è cotto nella teglia o in triso e tutte le misure di capacità e lunghezza. Ogni mattino dovevano presentarsi per celebrare e lodare il Signore, così pure alla sera, e ogni volta che si offrono olocausti al Signore, nei sabati, nei novi luni, nelle solennità, secondo il numero fissato loro dalla regola, sempre davanti al Signore. Essi, inoltre, assicuravano la sorveglianza della tenda del convegno e la sorveglianza del santo e l'assistenza dei figli di Aronne, loro fratelli, a servizio del Tempio del Signore.